al tempo stesso però mi sento anche di lanciare un saluto ai colleghi pendolari della linea ferroviaria Milano-Venezia, che ieri hanno nuovamente bloccato le rotaie per protestare contro i ritardi, i disagi, anche la sicurezza di questa linea ferroviaria, che in realtà è solo esemplificativa di tutta la rete ferroviaria italiana. Noi siamo un paese che ha deciso a un certo punto che bisognava andare tutti a quattro ruote, che dovevamo tutti consumare energia individualmente piuttosto che usare i mezzi pubblici. Penso alla situazione di Roma, che aveva la rete tranviaria più estesa d'Europa negli anni 30, oggi Roma è un esempio lampante di come non si possano, non si debbano progettare le reti di trasporto pubblico. E chiaramente di tutto questo ha sofferto l'intero sistema dei trasporti su ferro, su rotaia, che per il fatto stesso di essere indipendente dal traffico privato poteva rappresentare, come ha rappresentato per molti paesi, l'unica possibile soluzione. Ci sono paesi come la Francia, come l'Inghilterra, che con strategie diverse, per esempio gli inglesi hanno privatizzato, sono riusciti a non eliminare proprio tutti i cosiddetti rami secchi, trasformando alcuni rami secchi in rami profittevoli. Invece da noi semplicemente c'è il degrado totale, l'unica strategia è stata quella di vendere gli immobili delle ferrovie inutilizzati a dei grandi gruppi della grande distribuzione organizzata, per poi investire nelle poche linee che erano ancora, diciamo così, capaci di produrre buoni risultati economici. E di questo soffrono chiaramente tutte le linee che vengono usate dai pendolari, cioè da un segmento di mercato, diciamo, delle ferrovie che non dà grandissimi introiti, con il risultato di ritrovarsi scoraggiati ogni giorno di fronte alla assoluta impraticabilità del mezzo ferroviario. I pendolari della Milano-Venezia sono forse tra i più tartassati, però devo dire che in tutto il nord Italia, in molti viaggiatori che per un po' hanno coltivato il sogno, hanno fatto finta, si sono convinti con se stessi di trovarsi in una parte civile di un paese spezzato da diverse abitudini e diverse tradizioni, bene, dopo 4 anni di governo baciato e benedetto da Alberto da Giussano, le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate. Quindi hanno fatto finta di essere cittadini di una ipotetica Mitteleuropa cisalpina, per comportarsi esattamente come si comportano gli altri viaggiatori dell'Italia tartassata del meridione, cioè a un certo punto con un comportamento che va ben oltre, a mio parere, la disobbedienza civile, hanno bloccato i binari con la più odiosa forma di sciopero, ma io francamente mi sento di giustificare questa, che è la più estrema delle forme di protesta, perché blocca completamente un servizio pubblico. Però come dar torto a questi signori che semplicemente vorrebbero poter andare a lavorare in condizioni umane? Comunque è ancora incredibile che in questo bizzarro paese vi siano delle persone disposte a credere che vi sia un'Italia civile, onesta, di grandi lavoratori al nord, e un'Italia disonesta, incivile e di nulla facenti al sud.